Il terzo anello ad alta voce, I mandarini di Simone de Beauvoir. Non trovi rattristante che non si possa passare una serata tra amici senza litigare su questioni politiche? Disse lui sorridendo a Henri. Fare della politica, sia, ma perché immischiarla in ogni conversazione? Mettendo da parte Scriassin, cercava di ritrovare con Henri la complicità della loro giovinezza. Henri ne fu tanto più infastidito in quanto era del suo stesso parere. «Sono d'accordo», disse con mala grazia. «Si finisce per dimenticare che esistono altre cose sulla terra», disse lui. Si guardò le unghie con aria pudica. «Cose che si chiamano la bellezza, la poesia, la verità. Nessuno se ne preoccupa più». «No, c'è ancora chi se ne interessa», disse Henri. E pensò, dovrei parlare, dirgli che non ho più niente da spartire con lui. Ma non gli era facile insultare senza provocazione il suo più antico amico. Posò il suo bicchiere e stava per alzarsi e andar via quando Lambert intervenne. «Chi dunque se ne interessa?» disse con foga. «Non certo Vigilance, comunque. Perché accettiate uno scritto bisogna che sia farcito di politica. Se è soltanto bello o poetico non lo pubblicate mai. Per me, letteratura pura. È un'espressione senza senso», disse Henri, e aggiunse con voce tagliente. «Sappiamo dove si va a finire quando si pretende di isolare la letteratura da tutto il resto». «Dipende dalle epoche», disse lui. «Io ho certamente avuto torto nel 40 a pensare che si potesse prescindere dalla politica». «Credi pure», aggiunse in tono penetrato, «che ho capito tutta la portata del mio errore. Ma oggi mi sembra che s'abbia di nuovo il diritto di scrivere gratuitamente soltanto per il proprio piacere». «Ciascuno è libero», disse seccamente Henri. «Non tanto libero», disse Lambert. «È duro andare controcorrente». Lui accennò di sì con simpatia. «Tanto più duro oggi che tutto cospira contro l'individuo per convincerlo che non è niente. L'individuo, se ritrovasse se stesso, ritroverebbe una quantità di cose. Ma i mezzi di ritrovarsi gli sono negati. Ecco il circolo vizioso». «Gli sono negati», disse Lambert con forza. «Se pensiamo di non essere niente, di non potere niente, di non avere diritto a niente, cosa ci resta? Guarda, Chancel si è fatto ammazzare apposta, Césénac si droga, Vincent s'ubriaca, Lachaume ha venduto l'anima al Partito Comunista. Tu confondi tutto», l'interruppe Henri. «Non vedo cosa se ne farebbero Vincent o Césénac della letteratura pura. Quanto alle tue teorie sull'individuo perduto e ritrovato, sono tutte chiacchiere. Quando si è giovani non si sa ancora cosa si farà. È per questo che si sta sempre in pena. Ma appena ci si interessa a qualche cosa, a qualcosa d'altro che se stessi, non ci sono più problemi». Aveva parlato con collera. L'infastidiva che Lambert annettesse importanza alle scipitaggini di lui. S'alzò. «Bisogna che me ne vada». Scriassin si raddrizzò. «Sei veramente deciso a non tener conto delle mie informazioni?» «Non m'hai dato nessuna informazione», disse Henri. Scriassin lo guardò con occhi arrossati dalla collera. «Ti dici mio amico e difendi il regime che m'ha condannato a morte. Il giorno che m'avranno fucilato, spiegherai nell'Espoir che avranno avuto ragione». «Dio mio», disse Henri, «gli ex combattenti rompono già abbastanza le scatole, adesso escono fuori i futuri fucilati». Scriassin prese il suo bicchiere ancora mezzo pieno e glielo scaraventò contro. Henri s'abbassò e il bicchiere si fracassò contro il muro. «Dovresti andartene a letto», disse Henri avviandosi verso la porta. Fece un cenno con la mano. «Salve». «Che strazio, però», disse Henri quando si ritrovò solo con Lambert sul marciapiede. «Sì, sono del parere di Volanges. Le discussioni politiche dovrebbero essere vietate». «È simpatico, Volanges». «Lo trovi simpatico perché la politica t'annoia e perché anche tu difendi la letteratura pura. Ma le ragioni per cui la difende lui le capisci, no?» Lambert esitò. «Che la difenda per una ragione o per un'altra, quel che dice resta vero. I problemi individuali esistono e non è facile risolverli quando tutti vi ripetono che avete torto a porveli». Lambert inforcò la motocicletta e Henri salì dietro di lui. «È bastato un anno», pensò, «ed ecco che già ritornano con l'arroganza del peccatore sicuro di valere 99 giusti». Siccome dicono cose diverse da quelle che diciamo noi, Lambert e gli altri della sua età credono che portino qualcosa di nuovo. Saranno tentati di seguirli. E non bisogna assolutamente. Bisogna opporsi con tutti i mezzi. Quando la motocicletta si fu fermata, disse con calore, «Sai, accetto la tua offerta con riconoscenza. Hai avuto proprio una buonissima idea. Resteremo padroni in casa nostra». «Accetti», disse Lambert con aria felice. «Naturalmente. Tutta quella storia m'aveva messo di cattivo umore. È per questo che non sono subito saltato di gioia. Ma ti immaginerai quanto sia contento di poter conservare il giornale. Strinse la mano di Lambert con amicizia. Grazie. A domani. Henri aveva deciso di non starsi più a preoccupare. Le cose s'aggiustano sempre meglio di quel che si pensi. Saint-Mazel, per esempio, non era affatto così ingombrante come Henri aveva temuto. Eccettuato Luc, s'era guadagnato con la sua cordialità le simpatie di tutta la redazione. Trarieux non metteva mai piede al giornale, la tiratura era molto risalita e Henri, in definitiva, non era meno libero di prima. Ma era soprattutto il suo nuovo romanzo a renderlo ottimista. Aveva temuto enormi difficoltà e invece il libro andava avanti quasi da sé. Questa volta Henri era quasi sicuro d'essere partito bene e scriveva col cuore allegro. La sola seccatura era che Paul pretendeva di restargli vicina mentre lavorava e voleva leggere i suoi appunti. Lui rifiutava, lei si irritava. Si sarebbe meritata che glielo facesse leggere quel manoscritto, così si sarebbe sbarazzato una buona volta di lei. Certo, al momento della pubblicazione avrebbe dovuto per forza modificare quelle pagine, a meno che Paul nel frattempo non fosse morta. Ma intanto, quando le rileggeva, si sentiva vendicato. In un certo senso, si disse, la letteratura è più vera della vita. Dubreuil m'ha giocato uno sporco tiro. Lui è un mascalzone. Paul m'avvelena l'esistenza e io gli faccio i sorrisi. Sulla carta, invece, si va fino in fondo ai propri sentimenti. Rilesse ancora una volta la scena della rottura. Come si rompe facilmente sulla carta. S'odia, si grida, s'ammazza, ci si ammazza, si va fino in fondo. Già, ma è proprio per questo che è falso. Però, si disse, dà soddisfazione. Nella vita ci si rinnega senza posa e la gente ci contraddice. Paul m'esaspera. Tra un istante, tuttavia, avrò pietà di lei e lei penserà che in fondo sono sempre innamorato. Sulla carta fermo il tempo e impongo al mondo intero le mie certezze che diventano l'unica realtà. Svitò il cappuccio della stilografica. Paul non avrebbe mai letto quelle pagine, ma lui si sentiva ugualmente trionfante, come se l'avesse obbligata a riconoscersi nel ritratto che aveva tracciato di lei. Una falsa innamorata, innamorata solo delle proprie commedie e dei propri sogni. Una donna che fingeva la grandezza d'animo, la generosità, l'abnegazione, mentre era senza orgoglio e senza coraggio, chiusa nell'egoismo delle sue finte passioni. Era così che la vedeva, e sulla carta lei coincideva esattamente con quell'immagine. Fece del suo meglio nei giorni seguenti per evitare nuove scene, Ma Paul trovò una nuova ragione di indignazione. La conferenza che lui aveva accettato di tenere da Claudie. Henri cercò dapprima di giustificarsi. Persino Dubreuil aveva accettato. Si trattava d'un asilo per i figli dei deportati. Non aveva potuto assolutamente rifiutare. Siccome Paul non disarmava, decise di tacere. Ma questa tattica non fece che esasperarla. Anche lei taceva, ma sembrava rimuginare decisioni importanti. Il giorno della conferenza, mentre Henri s'annodava la cravatta davanti allo specchio, Paul lo guardava con aria così dura che d'improvviso egli sperò: «Si è decisa a rompere». Chiese con voce amabile: «Allora proprio non vuoi accompagnarmi?» Ella scoppiò a ridere così bruscamente che se non l'avesse conosciuta l'avrebbe creduta pazza. «Ah, che bella idea! Accompagnarti a quel carnevale!» «Come vuoi. Ho di meglio da fare», riprese con voce che esigeva una domanda. «Cos'hai da fare?» «È affare mio», disse con alterigia. Henri non insistette e stava cominciando a pettinarsi quando Paul disse in tono provocante: «Passo a Vigilance, a trovare Dubreuil. Ho tardato anche troppo. Quell'uomo è il tuo cattivo genio e io sola posso liberartene». Henri sentì il sangue salirgli al viso. Cosa sarebbe andata a raccontare a Dubreuil? Nei suoi momenti di collera o di inquietudine s'era espresso liberamente davanti a lei, ma non poteva tollerare che certe sue parole ora Paul andasse a ripeterle. Come dissuaderla? «Se vai a trovare Dubreuil non te la perdonerò e non mi rivedrai». «Ma io voglio salvarti», disse Paul con passione. «Non capisci che Dubreuil sta cercando di perderti? Tu accetti tutti i compromessi, vai perfino a parlare nei salotti e io so perché non osi più mostrarmi quello che scrivi. Il tuo fallimento si rispecchia nel tuo lavoro e tu te ne accorgi. Ne hai una tale vergogna da dover chiudere il tuo manoscritto a chiave. Deve essere proprio qualcosa di infelice». Henri la guardò con odio. «Se ti do il manoscritto, devi darmi la tua parola che non andrai da Dubreuil». Bruscamente l'espressione di Paul cambiò. «Me lo darai? E tu mi dai la tua parola?» Paul rifletté. «Ti do la mia parola che non ci vado oggi». «Va bene, mi basta», disse Henri. Aprì il cassetto, ne trasse il grosso quaderno grigio e lo gettò sul letto. Henri in verità si sentiva più vile d'un avvelenatore. «Arrivederci», disse fuggendo attraverso lo studio. «Arrivederci». Claudie aveva dato il segnale degli applausi. Tutti battevano le mani, alzavano la voce, si precipitavano verso l'oratore. Sorridevano, stringevano la mano di Henri, i loro occhi brillavano d'una curiosità quasi lubrica e dicevano le stesse parole che avevano detto l'ultima volta a Duhamel, che ripeterebbero indifferentemente la prossima volta a Mauriac o ad Aragon. Claudie posò una mano sul braccio di Henri. Vi presento Lucie e Josette Bellhomme. La piccola era bella, incontestabilmente, ma per la parte di Jeanne, quella sua figurina mondana non andava affatto. Pelliccia, profumo, tacchi alti, unghie rosse, sotto una cascata di capelli ambrati, era una bambola di lusso come tante altre. «Ho letto il vostro dramma, è magnifico», disse la Bellhomme con voce positiva. «E sono sicura che potrà fruttare un mucchio di soldi. Per queste cose ho buon fiuto. Ne ho parlato a Vernon, il direttore dello studio 46, che è un mio grande amico. È molto interessato. Vernon sarebbe disposto a dare una parte a Josette. La piccola non ha mai avuto altro che delle particine, ha solamente 21 anni, ma ha mestiere e sente il personaggio in maniera sorprendente. Vorrei che la sentiste nella grande scena del secondo atto». «La sentirò con piacere», disse Henri. «Se davvero Vernon accetta, prenderemo un appuntamento». La Bellhomme fece un sorrisetto. «Se Josette ha la parte, non dubitate che Vernon accetterà». La ragazza arrossì fino alla radice dei capelli. Henri le sorrise gentilmente. «Volete che fissiamo un giorno? Martedì, verso le 4, andrebbe bene?» Josette fece segno di sì. «Non avete che da venire da me», disse la Bellhomme. «Starete benissimo per lavorare». «Confesso che non m'ero immaginato Jeanne così bella», disse Henri allegramente. «Un'attrice non è mai troppo bella», disse Lucie. «Quando la vostra ragazzetta rientra in scena mezzo svestita, quel che il pubblico vuole vedere è questo», disse sollevando bruscamente la gonna di Josette e scoprendole le gambe fino a mezza coscia. «Mamma!» «Non fare l'ingenua, non è questa la tua parte», disse la Bellhomme con voce aspra. «Non ti scrivi l'appuntamento?» aggiunse. Docilmente, Josette aprì la borsetta e ne trasse un taccuino. Henri trattenne un istante nella sua la mano leggera di Josette. «A martedì. A martedì. Vi piace?» disse Claudie con una risatina quando le due donne si furono allontanate. «Se vi interessa, non fatevi scrupolo. Lei non ci fa troppo caso, povera ragazzina». «Perché povera?» «Lucie non è un tipo facile da viverci insieme. Le donne che hanno sputato sangue per riuscire, beh, lo sapete come sono, in generale». In un altro momento, Henri avrebbe ascoltato divertito i pettegolezzi di Claudie, ma gli si era presentata all'improvviso l'immagine di Paul. Era seduta in mezzo allo studio, immobile, lo sguardo fisso. Aveva letto. Frase per frase, parola per parola, aveva letto e riletto la scena della rottura. Sapeva tutto quel che Henri pensava di lei. Doveva rivederla subito. Ma all'idea di ritrovarsi faccia a faccia con lei, il cuore gli mancò. Forse non l'avrebbe neppure lasciato parlare. Forse... Affrettò il passo. Aveva la gola stretta quando salì gli ultimi gradini correndo. Non un rumore in tutta la casa. Non un suono di campanello, non una musica di radio, non l'abbaiare d'un cane. «Un silenzio di morte», si disse, e pensò con orrore. «S'è ammazzata». Si fermò davanti alla porta. Si sentiva un mormorio di voci. «Entra!» Paul sorrideva. Era viva. La portiera, seduta sull'orlo del canapè, s'alzò. «Ecco, v'ho fatto perdere tempo con le mie storie». «È simpatica quella donna», disse Paul gaiamente mentre la portiera richiudeva la porta. «M'ha raccontato delle storie straordinarie sui clochard del quartiere. Ci sarebbe di che scrivere un libro». «Così t'ha impedito di leggere il mio romanzo?» disse Henri con voce neutra. Paul lo guardò con aria scandalizzata. «Ma come? Certo che l'ho letto». «E cosa ne pensi?» «È magistrale», disse con semplicità. Henri prese il quaderno, lo sfogliò con finta indifferenza, lo aprì alla pagina fatale. «E la rottura con Yvette?» «Cosa ne pensi?» «Appassionante». «Trovi?» Paul lo guardò con un certo sospetto. «Perché ti sorprende?» fece una risatina. «Non hai pensato mica a noi scrivendo». Thank you. V'ho fatto aspettare? Chiese Josette. Ben poco, disse Henri urbanamente. Josette restava piantata davanti a lui, un sorriso spaurito sulle labbra. Portava una veste color d'ambra, fragile e molto indiscreta. Non ci fa troppo caso, aveva detto Claudie. Quel sorriso, il silenzio, i divani coperti di pellicce invitavano chiaramente a tutte le audace. Troppo chiaramente. Se Henri avesse profittato di quelle complicità, gli sarebbe parso di corrompere una minorenne sotto gli occhi di una ruffiana ghignante. Disse con una certa freddezza: «Se non vi dispiace, ci metteremo subito al lavoro. Ho un po' fretta. Avete il testo?» «So il monologo a memoria. Allora cominciamo». Posò il proprio copione su uno sgabello e s'accomodò su un divano. Era il pezzo più duro, quel monologo. Josette non ci aveva capito niente ed era terrorizzata. Henri si sentiva imbarazzato a vederla industriarsi così freneticamente di far bene, accentuando le parole a torto e attraverso in uno sforzo disperato per piacergli. Sì, faceva davvero l'effetto d'un ricco maniaco che stesse assistendo in un bordello di gran lusso a un'esibizione speciale. «Proviamo la scena del secondo atto», disse. «Io vi darò la replica». «È difficile recitare leggendo», disse Josette. «Proviamo». Era una scena d'amore e Josette ci si ritrovava un po' meglio. Aveva una buona pronuncia. Il suo viso, la sua voce, erano davvero commoventi. Chissà che un regista abile non potesse cavarne qualcosa. Le disse allegramente: «Non ci siamo ancora per niente, ma c'è speranza». «Credete?» «Troppa foga», disse Henri. «Siate più semplice». «Oh, non ci arriverò mai», disse Josette con voce desolata. «Lavorando, ci arriverete». «Prenderemo un altro appuntamento», disse. «Vi faccio perdere il vostro tempo». «Per me non è tempo perduto». Il sabato seguente si rividero nell'appartamento di Josette, in Rue Gabriel. Rispondendo distrattamente alle battute, Henri percorreva con lo sguardo quel giovane corpo fasciato di velluto nero e si diceva che quel corpo, quella voce, sarebbero bastati a farle perdonare anche la recitazione più malaccorta. Ben diretta, del resto, non si vedeva perché avrebbe dovuto recitare peggio di tante altre. In certi momenti trovava perfino degli accenti commoventi. Henri decise di tentare. «Andrà bene», disse con calore. «Certo, bisognerà lavorare duro, ma andrà bene». «Vorrei tanto», disse Josette. «Vernon non è matto, e nemmeno io. Non abbiate paura, reciterete benissimo». «Però non è affatto così che vedevate il vostro personaggio, non è vero?» «Adesso non potrei vederlo diversamente». «Davvero?» «Proprio davvero». «Avete una maniera così gentile d'accomodare le cose», disse Josette. «Peccato che al posto del buon Dio non ci siate voi». Gli era venuta vicina e nei suoi occhi non c'era soltanto gratitudine. «Io però non vorrei affatto che ci fosse lui al posto mio», disse Henri prendendola tra le braccia. Quando aprì gli occhi e intravide nella penombra le pareti tappezzate di verde pallido, la gaiezza di quel risveglio gli saltò al cuore. Josette si stropicciava gli occhi, tutta calda nella sua camicia spumeggiante. Henri la prese tra le braccia. «Sembri un piccolo fauno». Josette gli tese le labbra con aria incantata. «Una principessa persiana, una piccola indiana, una volpe, una campanula, un grappolo di glicine. Sono sempre contente quando gli si dice che somigliano a qualche cosa, a un'altra cosa». «Mio piccolo fauno», ripeté Henri con un bacio leggero. Improvvisamente avrebbe voluto farle una quantità di domande. C'era dietro di lei tutta un'esistenza di cui tutte le giornate, tutte le ore erano state vissute a una, tutte le notti, e lui ne ignorava tutto. Le chiese sorridendo: «Sei stata spesso innamorata?» «Io?» disse alzando le spalle. «Di chi?» «D'uno dei tanti che si saranno innamorati di te. Sei così bella». «È umiliante esser bella», disse voltando via lo sguardo. «Quanti anni hai?» 21. «Voglio dire, sul serio». Esitò. 26. E aggiunse spaurita: «Ma non dire alla mamma che te l'ho detto». «L'ho già dimenticato. Hai l'aria così giovane». «Perché mi sorveglio», sospirò. «Ma è stancante». «E tu non ti stancare», disse Henri stringendole teneramente il braccio. Poi chiese: «È da molto che volevi fare del teatro?» «Non ho mai voluto essere mancà e non amo i vecchi signori», rispose tra i denti. Era sua madre, evidentemente, che le sceglieva gli amanti, e forse era vero che non aveva mai amato. 26 anni, quegli occhi, quella bocca e ignorare l'amore. Meritava davvero compassione. «E io cosa sono per lei?» si chiese. «Cosa sarò?» In ogni modo, il piacere di quella notte era stato sincero. Sincera quella luce fiduciosa nei suoi occhi. Valentina Carnelutti ha letto I mandarini di Simone de Beauvoir, regia di Anna Antonelli, riduzione di Chiara Nicoletti, a cura di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it